ai lavori della 23esima settimana, della 33esima settimana di studio sul Kulturkampf in Italia e in Germania. Dopo parleremo insieme ai due coordinatori sulle modalità pratiche di questo che appunto non è un congresso ma un seminario e quindi acquisterà da oggi pomeriggio anche le caratteristiche, diciamo, fisiche del seminario. Ci trasferiremo nell'aula piccola e tutti intorno alla tavola ci presenteremo e ci comunicheremo tutti i nostri interessi relativamente a questa settimana. Ecco, stamattina però abbiamo il compito molto gradito anche di dare l'inizio in qualche modo, non dico solenne, ma formale a questa settimana, anche perché riteniamo che il tema stesso, la presenza di relatori così qualificati, dia a questa settimana un'importanza, diciamo pure anche di attualità, sia pure nel modo in cui gli storici possono concepire l'attualità nella loro ricerca scientifica. Il presidente dell'Istituto Storico, Adam Wandruska, rivolge quindi un saluto. Signor Senatore, cari amici, meine Damen und Herren, Sie werden ja schon gemerkt haben, wir haben hier den Grundsatz, dass jeder in seiner Muttersprache spricht, wobei Sie gebeten werden, was manchmal bei besonders eifrigen und feurigen Teilnehmern schwer einzuhalten ist, langsam und deutlich zu sprechen, denn die andere Sprache beherrschen, sind manchmal nicht in der Lage, wenn jemand wie ein Maschinengewehr losrattert, das auch zu hören und zu verstehen. Also ich bitte, dass wir alle deutlich, und auch wenn das ein bisschen länger dann dauert, verständlich sprechen und nicht zu lange Monologe. Es soll ein Dialog sein und kein Monolog. Nun, dieses heutige, Paolo hat gerade gesagt, 33esimo, wir sind fast schon so viel, fast so viel Seminare wie die Mostra Cinematografica am Lido, die sind bei 47, aber hoffentlich geht es bei uns. Wir sind, das wollte ich gerade sagen, wir sind dafür etwas lebhafter und gerade dieses heutige Seminar, das heute begonnen wird, führt uns eigentlich zu unseren Anfängen zurück. Ich darf denjenigen, die mit der Geschichte unseres Instituts nicht vertraut sind, ganz kurz sagen, es ist im Wesentlichen die Schöpfung von drei Männern, das zu entschuldigen, wir sind sehr maskulin, aber ich hoffe, dass wir doch mit der Zeit auch zumindest ein oder zwei Alibi-Frauen auch in die hierher bringen. Und es gibt ja eine Dame oder zwei Damen, die sehr viel hier, und noch viele andere auch, die zu erwähnen sind. Und Ladies First, es ist hier die Signora Schiera, die Publikationen besorgt und hier ganz große Leistungen, ich denke nur an die Übersetzung, schon unendlich schwierige Übersetzung von Land und Herrschaft von Otto Brunner zustande bringt, und es ist sozusagen die Mutter in mancher Hinsicht des aller Seminare, das ist die Signora Karin, wo ist sie? Sie ist nicht da, aber Sie werden sie alle teils schon kennen oder kennenlernen, Frau Karin Krieg, die für alle praktischen Fragen und für alles zuständig ist. Ich habe mal in Kölner Ostkolleg an einem Kurs teilgenommen, der am Beginn meiner Kölner Tätigkeit, die dann 11 Jahre wurde, stand. Und in diesem Ostkolleg wurde von einer Dame, die dort so das Hausmütterchen war, gesagt, die Teilnehmer an diesem Kolleg sollten sich mit allen von Seelenschmerzen bis zum Knopf annähen, an diese Dame wenden. Das möchte ich also auf Frau Karin Krieg nicht übertragen, aber sie ist für alles Wichtige zuständig. So, nun, die drei Männer, die dieses Institut eigentlich gegründet haben, waren Hubert Jedin, mein verstorbener Freund und Vorgänger hier in dieser Carica del Presidente, Hubert Jedin. Ich brauche denen, die dieses Thema, die hierher gekommen sind, um dieses Thema zu behandeln, nämlich den Kulturkampf in Italien, Österreich und Deutschland, denen brauche ich nicht zu sagen, wer Hubert Jedin, der ist der Historiker des Konzils von Trient gewesen ist und der eben auch gerade hier in Trient zusammen mit Paolo Prodi und dem damaligen Presidente della Regione, della Provincia. Allora era Provincia, poi è stato della Regione, poi è stato sottosegretario e adesso è Senato, senatore, no? Giusto? Ho nominato tutte le cariche, giustamente. Adesso è senatore. Dunque, quest'uomo energico, empire builder, Paolo Prodi e Hubert Jedin, il compianto Hubert Jedin, haben dieses Seminar oder dieses Institut gegründet und wir haben beschlossen, dass es eine große Bibliothek wir da hier anschaffen wollen. Und das Stichwort, das Paolo Prodi ein überaus glückliches Stichwort geprägt hat, eine Poststation an der Brennerstraße zwischen Italien und dem Mondo Germanico. Das ist die Aufgabe, als Symbol haben wir daher auch, bildliches Symbol, das berühmte Bild von Overbeck, Germania und Italia, das uns zwar die Kollegen in Meran, wo ja auch viele von uns tätig waren, beim, manchmal streitig machen, aber dieses Bild ist für uns eigentlich das Symbol aus der Zeit der Nazarener, die Zusammenarbeit von geistige, künstlerische, keine Achse im militärischen Sinn zwischen Italien und dem Mondo Germanico. Das ist unsere Aufgabe und es begann sofort mit Seminaren über die Aufklärung. Und dann eines der ersten systematischen war dann das, dass Freund Ettore Passerein d'Andre, den wir leider hier, ich möchte hier keine Trauerminute einlegen, weil wir die Zeit versäumen, aber ich möchte euch alle bitten, an Ettore Passerein d'Andre zu denken, der zusammen mit Konrad Röpken hier, das war damals mein Vorschlag, dass wir den ersten das erste Seminar, das Neuzeitseminar, dem Problem des politischen Katholizismus, politischen und sozialen Katholizismus in Italien und in der deutschen Welt widmen. Und das sind natürlich Themen, die sehr stark auch mit dem heutigen Thema des Kulturkampfes zusammenhängen. Und mit Ettore Passerein d'Andre habe ich wieder einen Strang genannt, der auch hier zu diesem Institut geführt hat. Es sind ja einige Freunde und Schüler und Kollegen von Ettore Passerein d'Andre hier. Also diese Welle, wobei ja ich mit Ettore zusammengekommen bin, durch mein Interesse für den, jetzt muss ich das richtige Wort sagen, damit ein anderer Freund, der nicht hier ist, nicht böse wird, nämlich Franco Venturi, auch aus unserer Klasse, der sagte, es gibt keine katholische Aufklärung, das ist ein hölzernes Eisen. Und ich habe dann gesagt, also gut, dann nennen wir es lieber Cattolicesimo Illuminato, also aufgeklärten Katholizismus. Das ist letzten Endes ein Streit um Worte, Und die ganze von der Gruppe von ältere Passerei dort treff sind ja auch heute einige hier. Es waren schon viele hier, auch leider leben nicht alle. Ruffilli zum Beispiel ist ja einem furchtbaren Attentat zum Opfer gefallen. Aber wir haben hier ja einen der Organisatoren, nämlich Kollegen Raniello. Also hier ist dieses Thema, das wir heute hier behandeln, ist ein Thema, das uns in gewisser Hinsicht zu den Anfängen zurückführt, die wir hier in diesem Sinne gemacht haben. So viel, ich will nicht länger reden, ich habe gesagt nur 5 Minuten, ich weiß nicht, ob es schon drüber ist, aber ich wünsche allen gute Arbeit und wie gesagt, wir wollen hier ein wirkliches Gespräch, einen Dialog haben. Ich bitte alle, dass sie auch bei ihren Interventi möglichst maximal 5 Minuten Interventi, weil ich weiß, dass ich freue mich besonders, dass Padre Martina hier ist, mit dem ich seit Jahrzehnten verbunden bin, der Jesuit, der immer bei den Kongressen des Risorgimento war. Auch das ist etwas ganz Besonderes, nicht? Denn Sie wissen ja, dass Risorgimento und katholische Kirche ja nicht immer gut auf einen Nenner zu bringen sind. Und er war immer der Vertreter auf allen unseren Kongressen und wir sind daher auch der alte Freundschaft verbunden. Also tutto il mondo e paese, Europa wird immer kleiner, man trifft immer wieder dieselben Leute und daher ist es gut, wenn wir hier jetzt viele Junge auch haben und das freut mich besonders, dass wir daneben halten, wenn ich hier ins Publikum schaue, auch dann den Kontakt natürlich mit dem Lokalen haben, mit der lokalen Geschichtsforschung, wenn ich an Kollegen Benvenuti hier denke, der ja über die Bischöfe von Trient zwischen Rom und Wien ein Buch publiziert hat, an Kollegen Corsini, den ich seit 1963, also seit dem großen Trentiner Kongress, im selben Jahr war der Trentiner Kongress und unser vom Instituto di Storia del Risorgimento, ist da, Sie sehen also, alles ist hier sehr eng verbunden, es fehlt nur, dove è andato? Oggi non c'è, Monsignore Roger non c'è, tornerà domani sera. Also Sie sehen, wir alle kennen uns, die meisten sind per Du miteinander, es ist also hier wirklich ein sehr familiärer Geist. Wir werden sicher harte Diskussionen haben, weil das Thema ja ein Thema ist, wie historische Themen oft sind, aber bei diesem Thema ist das noch viel mehr, als wenn wir über Barbarossa sprechen würden, wenn wir jetzt über den Kulturkampf, über das Problem des Verhältnisses von Kirche und Staat und Kirche in der modernen Welt sprechen. Ich darf nur daran erinnern, dass wie dieses Institut gegründet wurde, dass das in der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gewesen ist und jetzt ja wieder die Frage des Bewahren dessen oder Korrigieren dessen, was im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen wurde, ja wieder von einer brennenden Aktualität ist. Und ich bitte aber dabei nicht zu vergessen, dass wir in erster Linie Historiker sind und die Historiker ja gebunden sind eigentlich und es sich als Richtlinien zwei Grundsätze haben sollen. Das eine ist aus dem Johannesevangelium, ich glaube, die Wahrheit wird euch frei machen. Und das andere ist von Leopold von Ranke, wir wollen darstellen, wie es eigentlich gewesen ist. Danke. Ringrazio l'assessore alla cultura della provincia autonoma Tarcisio Grandi che è qui presente e che poi rivolgerà un breve saluto. Ecco, grazie naturalmente al nostro presidente Vandrusca. La parola al presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, senatore Bruno Kessler. Sì, molto brevemente e semplicemente, ma molto cordialmente, io desidero rivolgere a voi il saluto più cordiale dell'Istituto e il benvenuto qui a questo vostro lavoro. Desidero poi anche ringraziare a nome dell'Istituto tutti coloro che hanno organizzato, che hanno lavorato per organizzare questa 33esima importante settimana dell'Istituto Storico Italo-Germanico ed in modo particolare naturalmente il professor Lill e il professor Traniello che sono i coordinatori di questa settimana di studio. Dirò che per me è un grande piacere inaugurare questa settimana dell'Istituto Storico Italo-Germanico dedicata non solo ad un tema scientificamente e storicamente rilevante, ma anche tutte, diciamo così, che sono scientificamente rilevanti ed importanti le settimane che vengono organizzate dall'Istituto, ma direi che questa la vedo in modo particolare, anche perché riguarda finalmente un tema di grande attualità, ecco, come invece accade troppo di grado, io dico, dal mio punto di vista, e ciò a causa forse dell'eccessiva prudenza dei professori, di voi professori, a mescolarvi con i problemi della vita che invece interessano tanto, forse troppo, ma interessano certamente noi politici. Devo dire da profano che molte sono le ragioni che ci inducono a riflettere sull'urgenza dei problemi che il tema scelto per questa settimana evoca. Il primo e più superficiale è forse quello che si potrebbe chiamare problema Bismarck. Al nome del grande cancelliere è infatti inesorabilmente legato il Kulturkampf, ma a Bismarck è legato inesorabilmente anche il problema dell'unità tedesca e quindi anche indirettamente, ma con coinvolgimenti profondi, quello dell'attuale riunificazione. Per caso, proprio in questi giorni è stata inaugurata a Berlino una poderosa mostra di cui molto stanno parlando anche i giornali italiani su Bismarck, la Germania e l'Europa, voi lo sapete naturalmente. Questa mostra era stata programmata prima degli straordinari eventi dell'89, ma oggi può servire a sottoporre ad una luce critica e severa le implicazioni che la creazione di un forte Stato tedesco nel cuore dell'Europa però può ancora oggi avere. Aggiungo tra parentesi che è un grande onore anche per l'Istituto Storico partecipare alle iniziative connesse alla mostra, sia mediante l'organizzazione a Berlino verso la fine di ottobre di un seminario sui rapporti fra Italia e Germania nell'età di Bismarck, come pure con una conferenza ufficiale del professor Schiera all'interno della Vortragsreihe che si svolge in connessione con la grande mostra. Il secondo aspetto di attualità di questa settimana e più in generale riguarda l'eterno problema della laicità della politica, o meglio il problema del rapporto fra la politica e la religione. Anche in Italia questo tema continua ad essere agli onori della cronaca, grazie anche ad interventi recenti poi del professor Prodi che ci tiene in particolare, come tema che tocca da vicino quella che deve essere la posizione e l'impegno politico dei cattolici in presenza anche di una straordinaria tradizione di vitalità e di movimento del Partito Italiano dei Cristiani. I termini della questione sono ovviamente oggi diversi da un secolo fa, ma i problemi sottostanti sono più simili di quanto possa sembrare e trovo molto giusto che nella sede dell'Istituto Storico si possano affrontare serenamente e scientificamente problemi che sui giornali non possono quasi mai superare il livello delle polemiche dirette e superficiali. L'Istituto aveva d'altra parte già organizzato alcuni anni fa, in collaborazione con l'Istituto di Scienze Religiose, il tema Cristianesimo e Potere, raggiungendo risultati che sono stati universalmente apprezzati. Un terzo ed ultimo aspetto di attualità della nostra tematica sta nel fatto che esso si collega ad una lunga serie di seminari che l'Istituto ha dedicato nei suoi 18 anni di vita agli elementi costitutivi della base della politica contemporanea in Italia e in Germania. Forse è stata una delle caratteristiche principali dell'attività dell'Istituto. Non sto a riepilogare i titoli dei volumi che abbiamo pubblicato in argomento, voglio solo si vedono fuori e sono molti. Voglio solo sottolineare che questa attenzione al momento genetico della moderna democrazia rappresenta qualcosa di cui tutto l'Istituto ed io personalmente andiamo fieri. E ciò particolarmente in tempi come questi che stiamo vivendo, in cui sembrano entrare progressivamente in crisi i valori e forse anche le condizioni materiali di base su cui le moderne democrazie si sono costruite, o se non in crisi comunque vengono fortemente messe in discussione. Ciò vale, mi sembra, sia per gli aspetti più direttamente politici della partecipazione e dell'impegno dei cittadini nella vita collettiva, ma anche alla conformazione nazionale che quest'ultima aveva allora assunto e che sembra ora del tutto superata. Il recupero delle dimensioni di base della convivenza politica, i gloriosi enti intermedi rappresentanti dai comuni, dalle province e dalle regioni, vanno certamente richiamati a nuova vita, ma il superamento della realtà nazionale come quadro della vita politica deve condurci verso quadri più ampi e articolati, l'Europa e il mondo intero, e non verso chiusure indegne della tradizione occidentale e cristiana che sono i nostri stati nazionali, che i nostri stati nazionali hanno nella loro fase storica degnissimamente rappresentato. E questo lo dico qui in questa terra, che è una terra di autonomie, che è una terra che molto ha rivolto e scavato e ancora oggi vive nel contesto proprio anche del locale, ma proprio per questo in un certo senso anche dico che guai a noi se invece l'apertura non è totale. Scusate questa libertà che mi sono concesso, entrando da profano come storico, ma fortemente interessato invece come cittadino e come politico nel merito dei problemi che voi nei giorni futuri affronterete. Grazie allora ancora a tutti coloro che ci sono dati da fare ad organizzare questa importante settimana. Grazie, questa è l'unica occasione in genere che mi rimane per dare grazie da rivolgere al Consiglio Scientifico dell'Istituto Storico Italo-Germanico, un grazie vivissimo in particolare al sempre presente ed attivo professor Vandruska, e uno per tutti naturalmente a Prodi, che è il direttore che rappresenta l'intera struttura. A voi tutti l'augurio di un buon lavoro, di un intenso successo della vostra fatica, e anche con l'augurio soprattutto ai giovani che vedo qui anche numerosi, che saluto in modo particolare, che possiate trarre veramente da questo lavoro e da questa attività anche nostra quei risultati per i quali siete qui. Grazie. L'assessore alla cultura della provincia di Trento, Tarcisio Grandi. Saluto anche dell'istituto, naturalmente, spero al nostro ministro competente. Ma io sono veramente onorato di poter portare il saluto dell'istituzione provinciale e naturalmente rivolgo un particolare saluto al presidente senatore Kessler, al direttore professor Paolo Prodi, al direttore del comitato scientifico professor Vandruska, a tutti gli illustri relatori e naturalmente alle illustri personalità della realtà culturale trentina che vedo presente. Ecco, io vorrei spendere in questo momento una parola di gratitudine che rivolgo all'Istituto Storico Italo-Germanico. Gratitudine perché? Gratitudine per l'attività, per l'alto livello scientifico, per il grande rigore con il quale questa attività viene portata avanti, per il metodo con la quale pure viene svolta. Ed allora mi sia permessa una affermazione proprio di carattere generale, l'unica che voglio lasciare. Io personalmente considero l'ITC e quindi gli istituti che sono espressione dell'ITC come il frutto forse più significativo che l'autonomia provinciale è riuscita a raggiungere. E credo che questa sia una grande affermazione. Ed è per questo che è veramente grande, come dicevo prima, la gratitudine che io a nome dell'istituzione che rappresento voglio lasciare qui. Gratitudine che è accompagnata da una parola altrettanto convinta di richiesta a che questa attività, a che questo sforzo possa veramente continuare. Credo che sia assolutamente importante in sé, ma importante anche per la ricaduta che la vostra attività comporta non solo per la nostra comunità trentina, ma per l'intera comunità scientifica, per cui veramente l'amministrazione comunale vuole essere a fianco con convinzione e fino in fondo allo sforzo che voi state portando avanti. A questa iniziativa poi specifica, che come opportunamente ha ricordato il Presidente Senatore Kessler, è di assoluto interesse, auguro veramente un grande seguito, come pure auguro un pieno successo, e alle persone ospiti naturalmente un'accoglienza trentina veramente degna e dignitosa. L'ultimissima parola la voglio proprio consegnare al senatore Kessler per dirgli che l'amministrazione provinciale segue veramente con grande interesse, con un grande credo, l'attività che egli svolge assieme naturalmente a tutte queste grandi personalità della cultura, e questo credo che sia un sentimento vero. Quindi grazie proprio di cuore, senatore, per quanto sta svolgendo, non solo per noi, ma per una causa che mi pare molto, molto più grande e molto più nobile. E auguri di buon lavoro a questa 33esima settimana di studio. Darf ich noch etwas anfügen? Ich möchte besonders den Wandel der Generationen darin ausdrücken, dass ich die beiden Koordinatoren vorstelle, die beide eines gemeinsam haben, dass sie mit Jedin sehr verbunden sind und auch mit Ettore Passerin d'André sehr verbunden sind. Der Kollege Traniello verkörpert sozusagen die Linie, so wie Paolo Prodi, Jedin, Delio Cantimori, auch in gewisser Hinsicht Gruppo Dossettiano di Bologna. Der Kollege Lill ist ein enger Schüler und Freund von Hubert Jedin in seiner rheinischen Zeit gewesen. Und ich, wie gesagt, habe Jedin in den ersten Monaten des Jahres 1941 kennengelernt. Das ist also jetzt bald ein halbes Jahrhundert her. Das ist die eine Verbindung. Und nun etwas ganz Praktisches. Ist er weggegangen? Oh Gottes Willen. Ich wollte ihn gerade. Wo ist denn der Butterini? Giorgio? Ah, ecco che. Du sei nascosto, soltanto etwas Praktisches. Unserem Bibliothekar, auch einer, der von Anfang an dabei war, Giorgio Butterini. Und so wie ich Ihnen gesagt habe, für die praktischen Fragen mögen Sie sich an Karin Krieg wenden. Und so möchte ich Ihnen sagen, für alles, was Literatur und was die Benutzung unserer wirklich großartigen Bibliothek betrifft, Paolo Prodi hat mir einmal gesagt, dass er hier besser historisch arbeiten kann als sogar in Bologna, der ältesten europäischen Universität, dass die Bibliothek bibliotheksmäßig, natürlich nicht die Bibliotheca Marsigliana und so weiter, aber die jetzige, die moderne Literatur findet man hier am besten zusammengestellt und in kompletter Weise. Also das ist Giorgio Butterini, wenn jemand etwas sucht, dann soll er sich für Literatur nachschauen will, dann möge er sich an Giorgio Butterini. Entschuldigung, das ist eine praktische Sache. Der Präsident hat immer das Wort. Es ist schon gesagt worden, dass eigentlich jeder in seiner Sprache spricht, aber es ist ebenso richtig, dass in der ersten Sitzung auch mit Rücksicht auf unsere Gäste vorwiegend Italienisch gesprochen wird. Io vorrei ringraziare innanzitutto il signor Presidente e il signor Assessore delle loro parole e rispondere che siamo noi, l'Istituto, ogni membro e ogni ospite, che dobbiamo essere grati a voi, perché la provincia di Trento e l'Istituto Trentino di Cultura sostengono ormai da quasi 20 anni questa grande impresa con grandi sforzi anche finanziari. I quali purtroppo fino ad oggi non hanno avuto un ricambio dalla parte tedesca o austriaca, allora dobbiamo essere molto grato per questo impegno politico, finanziario e morale che ci ha reso la possibilità di fare tutti questi studi e speriamo di rendere almeno qualcosa in compenso a questo sforzo che la provincia ci dà da tanto tempo. Per introdurre al nostro argomento, direi che in ogni modo questi cosiddetti Kulturkämpfe formavano una fase incisiva e culminante del lungo processo di secolarizzazione di Stato e società, il quale è stato fondamentale per la costituzione dell'Europa moderna, segnata dallo Stato laico, come accennava lei, da pluralismo e tolleranza. Sul retroscena di un contrasto profondo tra la concezione progressista, progressiva di Stato, società e religione, sorta dall'Illuminismo, e in Germania più che altro dall'Illuminismo radicale delle regioni nordiche, contrasto da questo modernismo e il sistema tradizionale di ordini e di valori sostenuto più che altro dalla Chiesa Cattolica, la quale difendeva inoltre e con troppo rigore le proprie posizioni politiche e di potere. Contrasto dunque secolare tra progressismo liberale, il quale nell'Ottocento reclamava il diritto storico ad imporre le proprie vedute, e tradizionalismo, il quale si trincerava contro tali assalti per lo più in un atteggiamento di difesa autoritaria, personificata in Pio IX per esempio, difesa autoritaria la quale poi ha caratterizzato man mano tutto l'assetto della Chiesa Cattolica nella sua concentrazione ultramontana. Sul retroscena poi di un crescente contrasto sociale tra classi dirigenti e borghesia liberale da una parte e ceti medi, inferiori, artigiani, contadini dall'altra parte, quest'ultimi i quali trovavano una delle loro prime espressioni politiche nei movimenti e nei partiti cattolici. Da qui si capisce per esempio l'insofferenza e l'odio con il quale Bismarck cercava di reprimere o di distruggere il partito del centro, ma di questo ci parlerà il collega Becker. Allora su tutti questi vastissimi retrosceni dobbiamo qui riproporre lo studio degli antagonismi e degli scontri tra stati e chiesa, tra forze liberali e forze tradizionali, ed anche tra diverse concezioni all'interno della stessa Chiesa Cattolica, gli sforzi avvenuti nei paesi di lingua germanica e in Italia più o meno tra il 1830 e il 1880, con tanti parallelismi causati da situazioni storiche analoghe e soprattutto da una larga convergenza culturale dei movimenti liberali, poi nazional-liberali, i quali combattevano tradizionalismo religioso ed anche politico, cioè i quali combattevano contro ogni presunto relitto medievale, non solo il papato e le strutture gerarchiche della Chiesa, ma anche per esempio contro un impero plurinazionale e cattolico come l'Austria. E per questo ci sono anche tanti intrecci tra la storia politica e la storia religiosa dei nostri paesi in quell'epoca e anche molti fili che ci ricongiungono con l'argomento dell'anno scorso quando parlavamo delle immagini di Italia e Germania dell'Ottocento. Però anche con divergenze profonde tra Italia, Austria e Prussia, sia tra le mentalità politiche in Italia e in Germania, le quali dobbiamo sempre tenere presenti in queste nostre discussioni e soprattutto tra differenti e spesso contrastanti concezioni di Stato, di diritto pubblico e società negli Stati coinvolti nei culturkämpfe. Differenze che risalivano anche alle diverse tradizioni confessionali nelle rispettive culture e culture politiche. Con gli estremi della Prussia, di cui la classe dirigente vedeva da sempre nello Stato il fons unicus iuris, e dall'altra parte dell'Austria e dell'Italia, in cui anche liberali e moderati non negavano mai del tutto il diritto della Chiesa Cattolica ad una propria autonomia anche pubblica. Con le contrapposizioni non solo tra rigido conservatismo e liberalismo, ma anche tra un liberalismo autentico che ammetteva autonomie e pluralismi e quel liberalismo più statalista, direi, che si era formato nella Germania protestante e che si basava nelle cose religiose a quei concetti nuovi di progresso, di società e di religione civile, Zivilreligion, bürgerliche Religion del tardo Settecento, ai quali ho accennato all'inizio. E chi seguiva tali concetti non poteva mai comprendere la realtà o le realtà del mondo cattolico, ciò vale per la politica ma anche per la storiografia, da Treitschke a Wähler. Ed anche queste incomprensioni di allora hanno di molto contribuito ad inasprire e a rendere più duri nei paesi di tradizioni protestanti i culturkämpfe, fino a quella burocratica persecuzione della Chiesa in Prussia, dove l'autoritarismo tradizionale ha preso ulteriori forze da quel liberalismo statalista. Kulturkampf prussiano, il quale, come sapete tutti, ha inciso tanto sulla storia interna dell'impero, sui rapporti Stato-partiti, sui rapporti tra le confessioni religiose e anche sull'immagine che gli europei si fecero della Germania. Qui ci dovrebbe parlare anche di posizioni intermedie sul livello culturale tra quegli uomini e quei gruppi i quali cercavano il dialogo tra cristianesimo e liberalismo. Purtroppo furono allora molto spesso isolati ed emarginati dagli zelanti nell'uno e nell'altro campo. Posizioni intermedie anche sul livello politico, per esempio dell'Austria, la quale, pur limitando i poteri ecclesiali, seppe evitare la durezza prussiana e cercava più o meno nuovi equilibri tra Stato e Chiesa. Lo stesso vale per l'Italia, dove un Minghetti non si lasciava coinvolgere da Bismarck nel suo culturkampf. Oppure della Baviera o del Baden, con una strana mescolanza di liberalismo autentico orientato alla cultura politica dell'Europa occidentale e quel liberalismo dottrinario che si serviva ancora prima della Prussia del potere statale contro la Chiesa, da prima nel Baden, da quando i liberali diventavano, per usare un termine di Gall, regierende Partei. Oppure della Svizzera, con la situazione particolare di una federazione tra cantoni protestanti e cantoni cattolici. Cercheremo dunque di discutere e di approfondire non pochi di questi aspetti e problemi, tutti non possiamo trattare, problemi che sono di varia natura. Le ricerche sui culturkämpfe devono trattare storia politica nel senso tradizionale, storia delle idee e delle nuove idee collettive dell'Ottocento, storia dei partiti e dei movimenti politici e sociali dell'Ottocento. Oltre agli eventi concreti, essi devono allargarsi alla lunga durata, perché non poche delle costellazioni di allora ebbero delle conseguenze fino ai giorni nostri. Ciò vale per la Germania, pensiamo soltanto a non pochi del Terzo Reich, che erano anche contrasti confessionali, ma vale anche per l'Italia. Ed anche il conflitto fondamentale che sta dietro tutti questi Kulturkampf riemerge ogni tanto. E lo studio del Kulturkampf può insegnare che la ragione non è mai solo dell'una o dell'altra parte. Pensiamo solo a non pochi degli accesi dibattiti degli anni 70. Concludendo, si dice spesso che alla fine di questi Kulturkampf si sono stabiliti nuovi equilibri politici, culturali e confessionali. Equilibri validi, come dimostrano forse anche gli ultimi dibattiti italiani, in cui uomini politici cattolici e ambienti ecclesiali difendono il Risorgimento. In effetti, alla fine non si poteva parlare né di vincitori né di vinti. E se tu hai parlato di tanti colleghi illustri che ci hanno preceduto, farei ancora il nome di Rosario Romeo, che negli anni 70, in difesa dello Stato liberale, chiedeva la collaborazione di liberali, laici da una parte e cattolici dall'altra parte, sostenendo che le lotte di un secolo fa sono superate e che ora dovrebbe essere anche convivenza politica tra i due schieramenti. Però, anche se questa conclusione dei nuovi equilibri è giustissima, non dobbiamo dimenticare le chiusure e le rotture dell'Ottocento, le sopraffazioni e i moltissimi atti di intolleranza, atti contro la libertà delle coscienze, espulsioni, giudizi, cioè processi contro persone solo perché credevano altre cose, avvenute a causa e durante i Kulturkampf. Dobbiamo anche valutare le tante occasioni perdute allora per un più svelto e più completo avvicinamento tra cristianesimo tradizionale e liberalismo moderno. Chi crede oppure chi spera in una grande convergenza e continuità europea, la quale va dal cristianesimo e dall'umanesimo al liberalismo e alla democrazia, non può che deplorare tali deviazioni, kulturkämpferische deviazioni dalla giusta strada della storia e della ragione. Vista in questa prospettiva, i Kulturkämpf dell'Ottocento offrono tutti gli aspetti di conflitti, oppure di conflittualità inutile ed esasperata, la quale poteva essere evitata, ma non soltanto dalle forze di moderazione e tendenti ai compromessi, forze che furono messe in minoranza. Speriamo che la coscienza storica e la volontà al giudizio imparziale su i conflitti che divisero le società e soprattutto i ceti intellettuali dell'Ottocento possano far accrescere almeno un po' tali forze di moderazione, di rispetto reciproco e di tolleranza. Soluzione drastica. Signor Presidente, cari amici, sono particolarmente lieto di intervenire questa mattina all'inizio dei nostri lavori su un tema che mi appassiona, ma credo appassioni tutti noi. Non posso restituire la squisita cortesia del collega Lilla che ha parlato nella nostra lingua, perché la mia padronanza del tedesco è di molto inferiore alla sua padronanza dell'italiano. Parlerò dunque nella mia lingua cercando di seguire un ritmo più lento di quello che normalmente mi è proprio, con la speranza che gli amici tedeschi qui presenti possano seguirmi. In ogni modo metterò a disposizione, dopo questo mio intervento, che prometto sarà molto breve, un testo che spero di poter far riprodurre in alcune copie. Ancora una parola introduttiva desidero dire a proposito dell'evocazione che è stata fatta in questa sede del nome del mio carissimo maestro recentemente scomparso Ettore Passarena d'Antreu. E ringrazio il professor Vandruska con particolare affetto per questo ricordo che ho voluto fare. Sarebbe certamente toccato a lui presiedere a questo incontro per le sue competenze e di dimensione, di scala europea, assolutamente superiori alle mie, e per gli studi che in questo campo più direttamente aveva dedicato e per la notorietà della sua figura di studioso. La sorte ha voluto diversamente, noi continuiamo a lavorare nei solchi che questi uomini hanno incominciato a tracciare e cerchiamo di farlo nel modo più corrispondente possibile ai loro ideali, che non erano soltanto, voglio ricordarlo con forza, ideali scientifici o di ricerca, perché si traducevano sempre convinzioni morali personalmente vissute attraverso esperienze talora tragiche, ma sempre generosamente perseguite. Dopo questa introduzione del collega Lille, di carattere generale sui Kulturkampf, mi pare che non mi resti molto da dire se non tentare di spiegare ai colleghi, ai presenti, come il gruppo, diciamo, italiano, la squadretta italiana che partecipa a questa simpatica e a questo simpatico incontro ha pensato di orientare i propri interventi e perché sono stati scelti questi interventi e non ne sono stati scelti altri, vista la enorme vastità del tema, che vuoi su un piano nazionale, vuoi su un piano internazionale o sovranazionale, può essere, io credo, toccato da molti punti di vista. Guardando le cose in una prospettiva italiana, ci si può prima di tutto chiedere se vi sia stato in Italia un Kulturkampf, se cioè in Italia si possa parlare di un Kulturkampf come se ne parla per altre realtà europee e particolarmente centro-europee. Fino a qualche tempo fa si è discusso a lungo in Italia, i miei riferimenti saranno prevalentemente alla storiografia, così come si è venuta presentando nella tradizione italiana, della cultura storiografica italiana, si è discusso quanto la frattura tra la Chiesa Cattolica e lo Stato Nazionale sia stata profonda. Una parte della storiografia italiana, per i motivi che cercherò subito di chiarire, ha ritenuto che, tutto considerato, questa frattura, questo conflitto, nonostante costituisca uno dei pezzi forti, delle tradizioni forti della storiografia italiana, iniziata nell'Ottocento e giunta, se vogliamo, con il suo capolavoro all'opera di Arturo Carlo Jemolo, Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi, o negli ultimi 100 anni, secondo la edizione che uscì in prima edizione nel 1948, ebbene che la frattura che è analizzata da questa tradizione storiografica, il conflitto tra Stato e Chiesa, non fu poi così radicale come si poteva pensare o come veniva rappresentato dalla storiografia. In quanto si disse e si diceva, si trattò di conflitto tendenzialmente sovrastrutturale o di natura prevalentemente ideologica, che non toccava o toccava marginalmente i fattori profondi della vita sociale e dell'organizzazione pubblica dello Stato e della società italiana. Sarebbe stato quindi, secondo questa interpretazione, un conflitto che solo in alcuni brevi momenti si sarebbe manifestato con particolare acutezza e che tuttavia tendeva, questo conflitto, a ricomporsi abbastanza facilmente in conseguenza in particolare della natura moderata e, se si vuole, parziale della rivoluzione borghese che si era espressa nell'unificazione nazionale italiana sotto una matrice e un'egemonia liberale e che era portata, per questa sua natura moderata e parziale, a continuare a guardare alla Chiesa Cattolica come a un fattore di stabilizzazione sociale e, se vogliamo, di conservazione, soprattutto nel momento in cui si affaccia sull'orizzonte della storia un avversario che appare più pericoloso dal punto di vista dei gruppi, dei ceti dominanti, l'assetto borghese della società italiana, che è il socialismo. Questa partita a tre, diciamo, che si sarebbe giocata in Italia, ceti dominanti protagonisti dell'unificazione nazionale di tendenza liberale, Chiesa Cattolica e mondo cattolico raccolto attorno ad essa, movimento operaio e contadino di tendenza prevalentemente socialista, in questa partita a tre i motivi di frattura tra le borghesie dominanti e la Chiesa Cattolica, le borghesie che controllavano poi in realtà le strutture, la forza coattiva dello Stato, e la Chiesa Cattolica, si sarebbero facilmente ricomposte di fronte alla minaccia invece della rivoluzione o comunque della eversione di tipo socialista. Questo sarebbe anche il segno, secondo tutta una tradizione storiografica che in Italia ha avuto largo seguito, almeno fino a qualche tempo fa, sarebbe il segno della incapacità della borghesia italiana di fare in Italia una vera rivoluzione borghese. Questo tema del risorgimento e dell'unificazione nazionale come rivoluzione borghese parziale o addirittura mancata, naturalmente getta i suoi riflessi, ha dei riflessi sul modo di intendere il rapporto tra lo Stato controllato dalla borghesia liberale e la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica avrebbe continuato ad esercitare, secondo tale opinione espressa in termini storiografici, anche con notevoli prodotti intellettuali di questa storiografia, avrebbe continuato ad esercitare un ruolo di controllo sociale nei riguardi dei ceti o dei ceti popolari, soprattutto contadini, che la borghesia liberale, pur attraverso il controllo degli strumenti dello Stato, non era assolutamente in grado di esercitare. Da qui una specie di convergenza che era, diciamo, nelle cose, nei fatti, molto prima di essere nelle idee, ovviamente, perché questa tendenza di interpretazione della vicenda storica italiana che sto tentando di definire sommariamente non nega, ed è ovvio, che ci fossero contrasti ideologici di fondo tra liberalismo e cattolicesimo, soprattutto in una certa epoca storica. Ritiene tuttavia che questi contrasti, soprattutto in Italia, si siano manifestati appunto in prevalenza su questo piano, anziché sul piano del conflitto strutturale e irrimediabile. Ora, a noi oggi, a me in particolare, sembra che una rappresentazione della storia dell'Italia dopo l'unificazione, diciamo dal 1861, di questa natura sia eccessivamente schematica, forse eccessivamente semplicistica, anche perché tende forse a sottovalutare invece l'importanza delle fratture e dei conflitti che avvengono sul piano ideale o ideologico o delle mentalità. E da questo punto di vista allora è possibile pensare che ragionando su questi terreni, vero, occorra pensare di ricostruire forse con strumenti nuovi, a questo tema sarà dedicata l'ultima parte del mio intervento, anche la storia del Kulturkampf, nel senso appunto del conflitto, della lacerazione tra Stato, classi, dirigenti liberali e cattolicesimo, visto nel suo insieme come istituzione ecclesiastica, ma anche come organizzazioni parallele ad essa correlate. Anche se questa rappresentazione della storia d'Italia contiene, mi pare, e suggerisce una serie di interrogativi non secondari che continuano a, che è opportuno, io ritengo, tenere all'orizzonte del nostro sguardo. Partendo da queste considerazioni, mi pare utile, vista la sede e l'argomento del nostro incontro, pormi e porvi un'altra domanda che è forse quella che sta alla base delle successive, dei nostri successivi lavori, e che la risposta a questa domanda può servirci come orientamento nei lavori che andiamo a svolgere. Ammesso che quindi in Italia le relazioni e i conflitti tra Chiesa e Stato si siano manifestati dopo l'unificazione in modo particolare, è possibile fare un parallelo, metterle a confronto con quanto di simile è avvenuto in altre realtà europee e particolarmente in Germania? A me sembra che ragionando sull'area italiana, sul caso italiano, dobbiamo tenere sempre conto di alcune caratteristiche proprie, di alcune specificità. Intanto, i motivi di un contrasto tra Stato e Chiesa mi sembra che in Italia si protraggono più a lungo che in Germania. Potremmo forse dire che hanno minore intensità, forse anche minore drammaticità, perlomeno in determinate fasi storiche, ma un carattere più di maggior lunghezza, di maggior prolungamento nel tempo. Se è vero che le questioni di politica ecclesiastica abbracciano in pratica tutta l'età della destra, se vogliamo prendere l'avvio della unificazione nazionale, ma potremmo benissimo riportarci anche alla politica ecclesiastica piemontese del periodo del decennio cavuriano, addirittura dei primi governi costituzionali, quindi dal 1848 almeno, ma ammettiamo, prendiamo pure come punto di partenza l'unificazione nazionale, la nascita dello Stato unitario. Certo, constatiamo, vero, che la tensione perlomeno che frequentemente si traduce in aperto contrasto e conflitto tra Stato e Chiesa abbraccia tutta l'età della destra storica, quindi dal 61, dalla morte di Cavour, al 76, ma si prolunga ampiamente nell'età della sinistra, fino almeno alla crisi di fine secolo, alla crisi politica, sociale, economica di fine secolo. Per almeno 40 anni, se non mezzo secolo di storia. Altro fattore, elemento su cui vale la pena di riflettere e sul quale richiamerei la vostra considerazione, la vostra attenzione, è che dal punto di vista della politica ecclesiastica, intesa nel senso più proprio e specifico, non si può dire, mi sembra, che l'età della sinistra che pure era una formazione o un insieme di gruppi politico-parlamentari ideologicamente connotati in senso anticlericale nella loro stragrande maggioranza e spesso connotati, caratterizzati da un anticlericalismo piuttosto acuto, non si può dire, mi sembra, che la politica svolta da questi gruppi così connotati ideologicamente sia stata, dal punto di vista dei rapporti con la Chiesa, più aggressiva della politica svolta nell'età della destra. Notiamo questo fatto apparentemente paradossale, ma che evidentemente richiede risposte, analisi e risposte sul piano dell'indagine storiografica, che il mutamento di basi ideologiche dal punto di vista dei rapporti con l'interlocutore o l'avversario, in questo caso la Chiesa Cattolica, tale mutamento non corrisponde sempre né in modo così diretto un mutamento di atteggiamenti politici. E anzi si può statisticamente provare che le leggi o una serie di leggi più aggressive nei riguardi della Chiesa Cattolica e che la colpivano in alcuni degli aspetti che essa riteneva vitali, sono piuttosto approvati nell'età della destra che non della sinistra. In ogni caso non mi pare si noti un dislivello, un salto nel senso di uno sviluppo più marcato della legislazione anticlericale, sebbene nell'età della sinistra acquisiscano maggiori posizioni di potere uomini che provengono da formazioni anticlericali e tra queste un posto di rilievo assume la massoneria nelle istituzioni e nel controllo delle istituzioni pubbliche. Tutto il problema della massoneria è un problema ancora in larga misura aperto per la storiografia italiana. Non sappiamo veramente tutto o molto sulla massoneria. È certo che anche nella massoneria gli atteggiamenti nei riguardi del fatto religioso e della stessa religione cattolica erano diversificati. Certo, nell'insieme, l'età della sinistra sembra un'età in cui tende piuttosto a consolidarsi una posizione di avversione o di limitatezza o di limitazione dei poteri della Chiesa, che non una accentuazione nella legislazione di elementi aggressivi nei suoi riguardi. Secondo aspetto che richiamerei come proprio della storia della vicenda italiana rispetto a quella tedesca o di altri paesi centroeuropei è che in Italia i rapporti tra Stato e Chiesa e tutta la vicenda complessa che ad essi si collega è condizionata e influenzata dalla permanenza della questione romana. E cioè dal fatto che non si è realizzato al momento dell'unificazione quella soluzione consensuale della richiesta pontificia di aver garantito la propria sovranità e indipendenza anche attraverso un strumento di tipo territoriale, non si è realizzata questa possibilità che pure sembrava essere balenata per un attimo, ma io credo fosse un balenio irrealizzabile all'epoca del 1860-61, non si era realizzata, resta aperta questa questione dopo la presa di Roma da parte del nuovo Stato, la proclamazione di Roma capitale. Ora, nella questione romana, molti avevano visto, a incominciare da Camillo Cavour, la più importante e la più delicata per lo Stato unitario, proprio perché in essa si intrecciavano una serie di altre questioni. Era sotto questa dizione, insieme di problemi, si celava un nodo problematico di grandissimo rilievo che toccava una serie di dimensioni della vita nazionale molto complesse, molto delicate, di cui mi sentirei di elencarne alcuna e soltanto per dimostrare come la persistenza della questione romana continuasse ad avere delle influenze poi su tutto il problema dei rapporti tra Chiesa è stato in Italia, come dimostrerà poi la storia successiva, se volete, fino ai Patti Lateranensi, fino alla conclusione di questa, almeno provvisoria conclusione di questa fase storica. Innanzitutto la questione romana toccava la natura stessa e il ruolo dell'autorità pontificia nei riguardi della Chiesa universale e della Chiesa italiana in particolare. Non si può dimenticare che la proclamazione, che la fine del potere temporale aveva coinciso cronologicamente, ma direi anche in un certo senso logicamente, con la proclamazione dell'infallibilità pontificia da parte del Concilio Vaticano I. Ora, se la proclamazione dell'infallibilità pontificia e i risultati del Concilio Vaticano I avevano avuto grandi riflessi sui rapporti tra le chiese nazionali e gli stati europei, penso al caso della Germania, ovviamente, che non è l'unico, questi riflessi sono molto più consistenti nel caso italiano. Perché i legami, le connessioni tra la Chiesa italiana, o io direi ancora a quest'epoca le chiese italiane, vero, e Roma sono evidentemente più stretti. Quindi siamo qui di fronte a problemi, direi, di assetto interno ecclesiastico, di funzionamento dell'apparato istituzionale della Chiesa, e non semplicemente della proclamazione di un principio o di una verità dogmatica come altre. La proclamazione dell'infallibilità in quel determinato contesto storico dà anche un'indicazione, diciamo, sul modello di Chiesa che si tende a configurare, sul tipo, sull'organizzazione, sulla struttura e l'istituzione della Chiesa, che ha una serie di riflessi inevitabilmente circa il suo modo di rapportarsi all'interlocutore Stato, al suo, a quello che gli sta di fronte, all'istituzione che le sta di fronte. La questione romana ha a che vedere, secondo punto, ha a che vedere in modo diretto con la questione dell'indipendenza reale della Santa Sede, della responsabilità che su questa indipendenza hanno gli altri Stati europei, nonché le opinioni pubbliche europee, e quindi è l'elemento, vero, che configura in termini internazionali la collocazione del papato all'interno del nuovo Stato unitario. Attraverso il collegamento rappresentato dalla questione romana possiamo dire che in Italia la politica ecclesiastica ha dimensioni internazionali, ha riflessi sul piano internazionale, ciò che non avviene o avviene marginalmente in altri stati. Infine, terzo punto, l'attivazione di forze di obbedienza papale orientate in senso temporalista, in difesa dei diritti del Papa anche sul piano temporale, quelli che da allora incominciano a definirsi anche in Italia, prendendo un termine che viene dalla lingua e dalla cultura francese, i clericali, costituiscono il nucleo originario di un movimento che si chiamerà di lì a poco Movimento Cattolico, in via di rapido potenziamento, che è caratterizzato proprio in forza della persistenza della questione romana in senso che definirei antisistema o parzialmente antisistema, prendo questo termine dal linguaggio della politologia che io non amo moltissimo, ma non saprei definirlo diversamente se non appunto come termine di paragone rispetto invece al collocarsi di partiti cattolici interni al sistema, diciamo di tipo come opposizione costituzionale, e qui l'esempio del centro tedesco mi pare venga a pennello, quello italiano, almeno le sue origini, si muove invece nella dimensione di un'opposizione che potremmo dire anticostituzionale, antisistema, e la cui espressione pratica è data dall'astensionismo elettorale, però, dal rifiuto di partecipare alle elezioni, il che voi capite configura un tipo di opposizione cattolica all'interno dello Stato italiano diversa, non dico più forte o più efficace o meno forte, ma certamente diversa, con caratteristiche alquanto diverse che dovremo analizzare rispetto a quelle di altri paesi europei, il che tra l'altro dà al sistema politico italiano una configurazione che è diversa, tendenzialmente diversa rispetto a quella di altri paesi. Ultimo punto, e concludo veramente, tutto questo è stato ampiamente ripreso, rimesso in discussione dall'avanzamento degli studi in epoca recente. E noterei in questo avanzamento degli studi un progressivo spostamento dell'asse degli interessi storiografici in ambito, per quanto riguarda la cultura e la produzione italiana. Descriverei questo spostamento dell'asse, questo tendenziale spostamento dell'asse di interessi, da una prevalente attenzione alla sfera che definirei normativa delle leggi, della legislazione e delle relazioni istituzionali di vertice, e quindi i rapporti tra la Santa Sede e il governo di Roma, o tra i vescovi e le autorità locali, o tra i vescovi e la Santa Sede, e viceversa. Ecco, uno spostamento da questa dimensione prevalente dell'attenzione, che è stata, che aveva le sue ampie giustificazioni e legittimazioni, ad una analisi più puntuale, che vedo affiorare, manifestarsi in opere, in ricerche più recenti, in un'analisi più puntuale delle dinamiche reali presenti nella società italiana dopo l'unificazione. Questa analisi delle dinamiche reali, che sono meno condizionate dalla verifica sul piano del quadro normativo o delle relazioni tra i vertici istituzionali, hanno consentito di rilevare in genere, e questo è il fatto forse più nuovo che affiora, un certo scarto, una certa differenza tra i programmi e gli obiettivi di politica ecclesiastica perseguiti dai governi, enunciati e perseguiti dai governi, e le loro effettive realizzazioni. Vale a dire, probabilmente siamo in una fase in cui una rappresentazione della storia italiana della dopo l'unificazione può essere soggetta ad una certa revisione dal punto di vista storiografico, che non è una revisione, non appartiene più a quel tipo di revisioni che venivano dettate da preoccupazioni di natura prevalentemente ideologica, spostando, diciamo, la visione generale della storia d'Italia, i suoi significati, i suoi sensi, si tendeva a rimettere in discussione tutto. Siamo di fronte ad un tipo di revisione di natura diversa, che mi pare parta di più dalla documentazione e quindi storiograficamente forse più solida, più credibile, e in base alla quale, soprattutto attraverso il ricorso a nuove fonti documentarie, a nuove fonti di informazioni, si può dire che un conto forse fu la politica o le intenzioni, le intenzionalità politiche e le norme legislative che furono applicate in Italia, in campo ecclesiastico come in altri campi, un altro conto con una certa notevole differenza fu l'ottenimento di certi risultati, dove vero, una certa continuità, se vogliamo una certa passività anche, una certa resistenza dell'insieme della società italiana ai mutamenti che si tenta di imporre attraverso l'uso dello strumento coattivo e legislativo, questa resistenza sembra essere alquanto efficace. I mutamenti, alcune delle relazioni che verranno presentate da parte di studiosi italiani, mi pare vadano in questa direzione, i mutamenti sono minori di quelli che i governanti pensano di essere in grado di realizzare, il che naturalmente apre una serie di ulteriori interrogativi sia sui modi di funzionamento dell'amministrazione pubblica, dello Stato, diciamo nel suo insieme in Italia, sia sulle caratteristiche proprie della società italiana nel suo complesso. Alla luce di questi più recenti indirizzi di studio, tutte le questioni direttamente o indirettamente connesse con la politica ecclesiastica e o con le relazioni tra Stato e Chiesa, trovano, a me sembra, una collocazione parzialmente nuova, mentre si aprono nuovi campi di studio che sono rimasti troppo a lungo trascurati o negletti. È forse il momento, da parte italiana, è diciamo il tema che suggeriamo di affrontare anche in questa sede, di considerare sì la politica ecclesiastica, l'attività legislativa, i rapporti istituzionali e così via, cose importantissime che nessuno vuole sottovalutare, si intende, o mettere da parte, ma di tentare di arricchire questo panorama considerando anche altre dimensioni che sotto la definizione di Kulturkampf stanno un po' a fatica, anche se certamente sono connesse al quadro complessivo, alla cornice complessiva, e cioè le forme di vita religiosa, i modi di operare dell'assistenza e della carità pubblica, le applicazioni della legislazione in campo matrimoniale o familiare. Tutti quelli che hanno esperienza in questo settore sanno bene quanta differenza passi però tra il proclamare delle norme e verificarle poi nei comportamenti concreti, insieme al complesso delle pratiche collettive che hanno avuto inerenza, che hanno inerito a tutta la grande sfera di intreccio e di sovrapposizione della società civile con la società religiosa ed ecclesiastica. Grazie. Sì, siamo alla fine di questa prima riunione. Aggiungerei solo, per entrare nel corso, cioè nel confronto, che per quanto riguarda le lunghezze di quei conflitti, la storia tedesca è proprio segnata dal conflitto culturale che dura dal 700 al 900. Conflitto culturale tra la Germania protestante e la Germania cattolica, che poi si è esplicato in tante cose, in tanti momenti, tante tappe, e forse il Kulturkampf è stato solo una fase molto acuta di questo conflitto che durava, e forse oggi si può anche aggiungere che nella storia recente della Germania c'è stata la Repubblica Federale, il primo Stato tedesco che ha trovato degli equilibri tra le forze politiche e anche tra le confessioni religiose. E la stabilità della Repubblica Federale sta anche in questo fatto, perché prima non c'erano questi equilibri, ma forse di questo discuteremo a lungo. Io direi solo, chi non capisce questo contrasto profondo tra le due culture in Germania non capisce nemmeno la storia politica della Germania del 700 in poi, e anche l'esclusione dell'Austria dal corpo politico della Germania avvenuto nello stesso contesto politico-culturale del quale noi vi occupiamo qua. Con questo finiamo per questo momento, faremo una pausa di ben 20 minuti e ricominceremo alle 11:15. Abbiamo cambiato un po' l'ordine del giorno perché parlerà come primo dei nostri relatori, e con ciò entriamo anche nella fase in cui ciascuno parla nella propria lingua, il collega Becker su Bismarck, perché forse è più logico cominciare con questa relazione su Bismarck e sentire poi domani le reazioni a questa politica bismarckiana. Allora alle 11:15 qui in